Storiacce di Raffaella Calandra. Sono tra i punti più sensibili di ogni riforma della giustizia e ora, quasi a fine legislatura, restano ancora lì, aperti sul tavolo del guardasigilli. E i fatti di cronaca recenti, a cominciare dall'intricata inchiesta Consip, rendono tutto allo stesso tempo più complicato, ma da un'altra prospettiva pure più urgente. Intercettazioni, carcere, riforma del codice penale sono in questo momento i dossier aperti più complessi nelle mani di Andrea Orlando, che è riuscito però a portare a casa a fine giugno una riforma del processo penale che allunga la prescrizione, aumenta le pene per scippi e furti e introduce una stretta sulle intercettazioni. Il 3 novembre scade la delega al governo per la revisione dell'ascolto, mentre i dati del Ministero registrano un aumento dei bersagli intercettati. E da qui allora partiamo in questa nuova puntata di Storiacce a tu per tu col Ministro della Giustizia Andrea Orlando. Nel 2016 sono stati tanti i bersagli di intercettazioni telefoniche nel nostro paese, più che raddoppiate nella sezione terrorismo, dove sono 8.012, diminuite invece per le direzioni distrettuali antimafia e invece aumentate nella sezione cosiddetta ordinaria, quella dove finisce tutto il resto, a cominciare ad esempio dai reati dei colletti bianchi, come la corruzione. Ogni volta che si mette mano alla riforma delle intercettazioni, le polemiche, lo sapete, sono sempre roventi e, se possibile, stavolta sono avvelenate anche dagli strascichi del caso Consip, con le accuse anche a magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria, sullo sfondo di un'inchiesta che ha toccato il padre dell'ex premier Matteo Renzi. Così, trovare un equilibrio tra diritto alla privacy, quello all'informazione e verità processuale è la sfida affidata ad Andrea Orlando, il ministro della giustizia, che sembra però determinato ad andare avanti, come sul codice antimafia e la riforma del carcere. E di questo ora parla Storiacce. Benvenuto al ministro Orlando e benvenuto anche alla collega della Sole 24 Ore, Giovanni Negri. Allora, ministro, la delega sulle intercettazioni scade il 3 novembre. Su questo scoglio si sono infranti i progetti di molti guardasigilli, da Flick a Castelli, Mastella, Alfano. Lei ha già fatto sapere che nel testo del decreto non ci sarà il famigerato riassunto contestato da avvocati e giornalisti. Quale sintesi allora pensa di trovare tra diritto alla privacy, informazione e verità processuale? Ma il decreto spingerà molto sulla riduzione del rischio, cioè sulla diminuzione della mole delle intercettazioni prodotte sia nella fase della richiesta di provvedimenti sia nella fase dibattimentale, e allo scopo di appunto consentire uno sforzo più grande da parte dei magistrati inquirenti di ripulitura, diciamo così, dei materiali, distinguendo ciò che è penalmente rilevante da ciò che non lo è. Tutto questo senza mettere in discussione gli strumenti di indagine e senza in qualche modo comprimere la possibilità di pubblicare ciò che è sostanzialmente pubblico. Quindi il lavoro deve essere fatto a monte, con una riservata, con un meccanismo di appunto selezione che può, se fatto diciamo in modo non condiviso, portare anche a un contraddittorio che può consentire alle parti di verificare appunto se c'è condivisione tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che non. L'udienza stralcio, però si creerebbe anche una sorta di archivio delle registrazioni, questo non la spaventa? No, non mi spaventa, perché sarà oggi quelle registrazioni sono, diciamo così, già nella disponibilità del PM, e in questo caso ne assumerebbe una più forte responsabilità nella conservazione e ci sarebbe un giudice terzo a vigilare esattamente il contenuto di questo archivio e a verificare ciò che appunto il PM considera rilevante o irrilevante, quindi un eventuale intervento di un giudice terzo che però è in qualche modo a garanzia anche della riservatezza e della condivisione di ciò che si ritiene funzionale all'attività processuale. Ecco, ancora una domanda, se possibile, sul tema intercettazioni. Dalla bozza di lavoro sinora circolata, da prendere evidentemente con tutte le cautele del caso e per quello che è appunto una bozza di lavoro e una prima traccia, però sembra di poter individuare un ruolo di primo piano e con una vasta discrezionalità da parte della polizia giudiziaria nella trascrizione delle intercettazioni, con una selezione già di quanto è rilevante o irrilevante. Alla luce anche del caso Consip, sul quale non le chiediamo di fare delle considerazioni, però ecco, non sarebbe opportuno un ripensamento su questo punto? È vero che poi il pubblico ministero potrà accedere comunque all'integralità delle comunicazioni, però tutto questo rischia di creare e un appesantimento e di richiedere al PM una diligenza forse eccessiva. Ma dunque, anche questo è stato oggetto del confronto e sono emerse delle soluzioni che possono portare a in qualche modo consentire al PM un controllo più stringente anche dell'attività che inizialmente viene fatta dalla polizia giudiziaria. Naturalmente non dobbiamo costruire delle norme sulle patologie estreme, ma è del tutto evidente che, e quindi non farei della vicenda Consip in qualche modo il paradigma di un modo di fare le indagini o di farle, diciamo così, in modo quantomeno discutibile, e tuttavia credo che sia in termini generali giusto che si possa verificare se l'attività svolta dalla polizia giudiziaria è stata congrua. Quindi in questo senso pensiamo a una sorta di doppio brogliaccio uno dei quali riservato, sulla base del quale il PM può andare a vedere che cosa c'è di utile eventualmente per le sue indagini e di vedere se la selezione che in qualche modo è stata fatta è appunto stata fatta correttamente. Cioè un doppio brogliaccio, uno integrale e uno con la selezione fatta dalla polizia giudiziaria? Uno con diciamo così, un richiamo del materiale che è stato espunto, in modo tale che è naturalmente anch'esso riservato, diciamo così, promanazione dell'archivio riservato stesso, sulla base del quale il PM può andare a verificare come è stata fatta la selezione, se eventualmente ci sia qualcosa che dal punto di vista del suo impianto accusatorio può essere utile. Ministro, ancora un'ultima domanda sul capitolo intercettazioni. Ecco, voci autorevoli come il procuratore di Roma Pignatone o l'avvocato Malavenda hanno aperto ad un accesso diretto dei giornalisti agli atti non più segreti. Non pensa che questo potrebbe evitare anche rischi di strumentalizzazioni o di opacità che non sono mai mancati nella cronaca giudiziaria? Ora stiamo parlando della vicenda Consip, ma in passato, non so, mi viene da citare la vicenda della telefonata di Fassino durante le scalate bancarie. Beh, quella di Fassino non sarebbe stata in nessun modo evitabile perché si trattava di un'intercettazione illegale, quindi da questo punto di vista nessuna modalità di trattazione, di trattamento delle informazioni acquisite avrebbe evitato quella pubblicazione, perché come si è visto si trattava di una captazione fatta da una società privata che poi l'ha diffusa, quindi lì si tratta di affrontare il tema su un altro piano, che è quello della capacità di controllo delle procure sulle società che fanno le intercettazioni. Questo tra l'altro è un tema che la delega affronta. Invece io penso che questo tema sia sicuramente di grande interesse e meriti un dibattito. Non è affrontato invece questo dalla delega e non metterei in questo momento troppa carne al fuoco. Io mi accontenterei di portare a casa, diciamo, dopo molti anni, una normativa che disciplini le modalità attraverso le quali si selezionano le intercettazioni, e poi rimetteremo al legislatore questa valutazione per il futuro. Credo che le considerazioni del procuratore Pignatone siano interessanti e per molti aspetti condivisibili. Quindi potrebbe esserci in un futuro un dibattito parlamentare, diciamo, anche serio, diciamo, sulla possibilità di dare accesso ai giornalisti agli atti non lo escludo assolutamente. Ora facciamo questo passo. Naturalmente molto dipende anche da come funzionerà questo passo, perché se avremo effettivamente degli atti pubblici che sono ripuliti, diciamo, da quanto non penalmente rilevante, questa discussione si può fare anche con più tranquillità e con diciamo uno spirito più libero. Riuscirà il ministro della giustizia a portare a termine anche la riforma delle carceri, nonostante questi non siano affatto temi popolari? Ma voi invece cosa pensate della possibilità di aprire anche ai cronisti l'accesso diretto agli atti delle inchieste, quando non più segreti? Ci ritroviamo tra pochissimo col ministro della giustizia. Ciao chef, come stai? Ciao Pier, bene, bene, grazie. Senti, cosa mi prepari? Io pensavo nuvole di granchio, una sensazione di finferno, magari con un'assenza di rododendro al gratella. No, sei troppo futurista, dobbiamo essere più pop. E parla come mangi. Ma no, mangia come parli. Mangia come parli, di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 9, su Radio 24. Non sei convinto? No, è che due... Storiacce di Raffaella Calandra. Vi faccio una domanda: se i giornalisti avessero accesso diretto, proprio come gli avvocati, agli atti non più segreti di un'inchiesta, secondo voi questo non renderebbe la cronaca giudiziaria più trasparente e non la sottrarrebbe anche al rischio di strumentalizzazioni e di opacità, per così dire? Ora c'è il caso Consip, con i veleni intorno alla pubblicazione delle intercettazioni del padre dell'ex premier, oltre alle accuse a carico di ufficiali giudiziari e di un PM. In passato c'è stata la telefonata di Piero Fassino durante l'OPA, Unipol, BNL, e gli esempi potrebbero essere, a dire il vero, molteplici. L'accesso diretto dei cronisti agli atti depositati non ridurrebbe quantomeno anche questi casi? A favore si sono pronunciati magistrati come il procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, o celebri avvocati come Caterina Malavenda, ma il tema è assai delicato e non è l'unico nelle mani del guardasigilli, che in piena campagna elettorale ormai punta a riformare pure le carceri. E da qui allora, insieme al collega Giovanni Negri, ripartiamo col ministro della giustizia Andrea Orlando. No, intanto dobbiamo dire che si aumentano i detenuti e assumeremo anche dei provvedimenti amministrativi per consentire di diminuire il numero di quelli in attesa di giudizio in carcere, perché molti sono in carcere per una ragione molto semplice: che avrebbero titolo per accedere ai domiciliari ma non hanno un domicilio e quindi stanno in carcere, perché il magistrato si trova nella condizione di non poterli assegnare ad altra possibilità. Dovrebbero arrivare presto i braccialetti elettronici, che sono un altro strumento di deflazione appunto per chi sta ai cautelari, quindi io credo che si può fare ancora molto per evitare questo trend che ha ripreso a crescere. Però dobbiamo dire anche che in parallelo noi abbiamo fatto crescere il numero di posti disponibili, perché noi siamo partiti da circa 45.000 posti disponibili, attualmente siamo a 50.500 e conto di avere qualche passo in più anche da qui ai prossimi mesi, quindi non c'è solo la crescita dei detenuti, c'è anche la crescita dei posti disponibili. In ogni caso, quindi nessun effetto svuota carcere? Non ci sarà svuota carceri, nel senso che non ci saranno provvedimenti in qualche modo di carattere emergenziale. Ci sarà la possibilità, una facoltà più ampia per il magistrato di sorveglianza di assegnare pene alternative quando il detenuto, secondo un percorso trattamentale, avrà dato segnali di in qualche modo evoluzione, quindi quando ci sarà un processo riabilitativo in corso, la possibilità di dare diciamo anche le pene alternative laddove oggi non è possibile. E questa strada sicuramente potrà portare a una diminuzione della popolazione detenuta, cioè ad utilizzare il carcere laddove è strettamente necessario, non semplicemente come parcheggio, anche per persone che hanno perduto la loro pericolosità. Ministro, sui tempi dei processi sicuro molto è stato fatto, soprattutto nel civile sono calati di molto, è calato anche appunto l'arretrato, ma ancora però si ripetono casi come quella della vicenda torinese di uno stupro su una sedicenne, e nella cui vicenda diciamo gli aguzzini sono tutti ormai usciti fuori dal processo, perché la vicenda è prescritta, perché sono passati 16 anni. Sono vicende che, come dire, che fanno un po' male a un ministro della giustizia. Beh, assolutamente sì. Io devo anche dire che abbiamo aumentato i termini di prescrizione con il DDL penale, quindi abbiamo sostanzialmente consentiremo un bonus ulteriore per esercitare l'azione penale quando c'è una condanna in primo grado, e quindi in questo senso diminuiscono i rischi di ipotesi come questa, che naturalmente, essendo maturata la prescrizione oggi dopo 16 anni, è partita molto tempo fa, quindi in una fase in cui penso si possa dire né io né il governo in carica avevano alcuna responsabilità. Insomma, noi ripetiamo spesso cose che sono state fatte o non sono state fatte in precedenza. Credo di lasciare una condizione più agevole a chi verrà dopo di me. Dopodiché, sul fronte della prescrizione, ci troviamo in una situazione nella quale, lo dobbiamo dire con molta chiarezza, molto dipende dall'organizzazione dell'ufficio, perché noi abbiamo situazioni nelle quali le prescrizioni arrivano fino al 30% in alcuni tribunali, in alcune corti d'appello, e in realtà dove le prescrizioni a stento arrivano al 2%, quindi le leggi sono le stesse, spesso i tassi di criminalità sono esattamente gli stessi, e molto dipende dai capi degli uffici e dal modo in cui sanno organizzare gli uffici. Noi possiamo fare tutte le leggi che vogliamo, ma se poi non c'è una capacità che va in questa direzione, se il CSM non sceglie persone che hanno una capacità organizzativa, le leggi poi servono fino a un certo punto. Aggiungo che un contributo lo daremo, credo, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché incominceremo una potentissima iniezione di informatizzazione anche nell'ambito del penale, così come è avvenuto nel civile, e questo credo darà dei frutti, anche se naturalmente li vedremo più in là. Aggiungo anche che nel DDL penale ci sono una serie di strumenti che si aggiungono alla messa alla prova, alla tenuità del fatto, alla depenalizzazione che abbiamo realizzato per deflazionare il processo penale. La possibilità, per esempio, di arrivare all'estinzione del reato quando c'è una condotta di carattere riparatorio. C'è già stato un primo caso nell'ambito del processo Banca delle Marche di un imprenditore che ha chiesto di chiudere il procedimento offrendosi, di provvedere al risarcimento. Ora non so quale sarà la decisione del giudice, però è interessante che si incominci a verificare il fatto che questi strumenti possono funzionare. Il processo deve servire, laddove non c'è altra possibilità in qualche modo di chiudere il vulnus nei confronti della comunità. Laddove è possibile chiuderlo diversamente, io credo che sia da incoraggiare questo tipo di azione. Senta, signor Ministro, nella sua amministrazione resta forse una grande incompiuta, almeno rispetto ai punti annunciati all'inizio del governo Renzi, dall'allora Premier e da lei stesso, cioè la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Perché non si è riusciti a condurla a termine, malgrado ci siano state commissioni ministeriali che hanno steso poi alla fine delle bozze di intervento? Perché penso che parlare di questioni di rilevanza costituzionale in una stagione in cui c'era già in corso un referendum costituzionale non sia stato particolarmente agevole, perché il CSM ci chiese a suo tempo di poter intervenire con un'azione di autoriforma che in parte io credo abbia dato qualche frutto, e perché poi alla fine il tempo è quello che è e la possibilità di percorrere i canali parlamentari è abbastanza limitata. Noi stiamo ancora attendendo l'approvazione della riforma del processo civile e del fallimentare, eppure sono partiti 3 anni fa, quindi abbiamo davvero messo tantissima carne al fuoco. Il capitolo giustizia nell'attività legislativa è stato più o meno costantemente attorno al 30% dell'attività parlamentare, quindi abbiamo fatto la parte del leone rispetto all'attività dei due rami del Parlamento, e tuttavia il bicameralismo per un verso e anche una certa lentezza nel legiferare ci hanno impedito di portare a casa tutto quello che avremmo voluto. Ecco, in questo scorso... O forse anche i rapporti non sempre proprio molto sereni con anche la magistratura in questi ultimi periodi. Ma a me pare che alcuni interventi sul CSM siano ormai ampiamente condivisi. Certo, ogni tanto c'è qualche increspatura e forse quella può aver anche influenzato questa discussione, però non mi pare che siamo distanti. Ecco, se si trattasse di rivedere l'impianto costituzionale che regola la giustizia, forse emergerebbero polemiche roventi. Non è stata mai nostra intenzione e non è stata la mia in particolare, quindi questo tema è stato affrontato sempre a normativa costituzionale invariata, e quindi mi pare che le soluzioni che erano emerse sono soluzioni di buon senso che potrebbero aiutare a far funzionare il CSM meglio di quanto non avvenga oggi, senza stravolgere l'impianto, e per questo non vedo, diciamo così, un nesso diretto con le polemiche che pure ci sono state con la magistratura associata. Ministro, avviandoci verso la conclusione, un'ultima domanda ancora: al Consiglio dei Ministri discutete di DEF, lo pensa un po' a rischio, visti anche i rapporti con MDP e le fibrillazioni di queste ore un po' nel centro-sinistra, appesantite anche dal dibattito sulla legge elettorale? Ma non riesco a pensare che qualcuno davvero voglia mandare l'Italia al voto con un esercizio provvisorio che rischia di compromettere anche i risultati positivi che si stanno riscontrando sul fronte economico, comunque i segnali di ripresa. Ecco, io penso che chi decidesse una cosa del genere si assumerebbe una responsabilità davvero enorme di fronte al paese, e penso che in questo senso nessuno credo abbia intenzione di assumersi questo rischio. Grazie al ministro della giustizia Andrea Orlando, grazie al collega Giovanni Negri. Ne approfitto anche per anticipare qui un prossimo evento di Storiacce che ha compiuto 10 anni, e allora per ricordarlo il 5 ottobre alle 15:30 abbiamo deciso di far incontrare il ministro della giustizia Andrea Orlando con i vertici delle procure di Milano e Roma, un evento che potrete seguire in diretta dalle 15:30 in streaming sul sito del sole24ore.com, il racconto della giustizia che cambia. Ma tornerò ancora a parlarvene anche sulla pagina Facebook di Storiacce. Su Twitter invece mi trovate all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto.